Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Oggi Kappa, cosa? Ricreazione corta. Come corta? Corta. Ma no, ma lunga, ieri era lunga, siamo appunto, sotto Natale. No, è come i tassi variabili del mutuo. Ah, ieri lungo, oggi corto, domani si compensa. Lungo quindi. Domani forse lungo, però lo dicono al mattino, quando arrivi, la sorpresa è lì. E quindi? Dobbiamo quindi lavorare. Ti devi organizzare e preparare un po' dei discorsi da fare, perché la ricreazione qui, niente. Sono pronto. Allora, parliamo ancora del prontuario della ministra bambina Brambilla. Ma ancora? Eh sì. Quello dei bambini in viaggio, per portarsi i bambini in viaggio, l'encefalite giapponese. L'encefalite giapponese. Però ricordi che noi abbiamo chiesto anche un prontuario per i genitori dei bambini, cioè per i bambini un po' cresciuti, i turisti, gli italiani all'estero, no? Sì. E mi è venuto in mente che un'altra iniziativa lodevole sarebbe quella di pensare ai genitori quando accompagnano i bambini nei parchi a tema, cioè nel loro habitat. Bello, Gardaland, Mirabilandia, bello. Disneyland. Dopo un po' di tempo uno che è lì con i bambini si annoia, no? E quindi? E quindi io, secondo me, dovrebbero copiare il modello McDonald's o Ikea, e cioè grandi aree per adulti in libertà, Gardaland, Mirabilandia e quei posti lì. Cioè con le palline, le vasche con le palline. No, io direi un po' di boutique per le mamme, qualche sala da biliardo per i papà, questi sbaghi così, ma cosa dici, boutique, sale da biliardo? Drago, sei fermo al tuo solito immaginario anni 60, anche 50 un ma po'. Ma come? Ma cos'è boutique e sale da biliardo? Le mamme e i papà adesso vanno alle spa. Fanno la sauna, fanno i bagni turchi, ma fanno non ho massaggi. Capito, Kappa. Genitori, mamme e papà tutti insieme in sauna, nudi. Nudi per forza. I bambini sauna. Fuori si schiantano sul bruco e loro fanno il trenino in sauna. Uff, che caldo che fa! Beh, è una sauna. Facciamo un trenino tutti insieme! A, E, I, O, U, Y. A, A, A, A, A, E, I, O, U, Y. Completa. Questo è molto divertente. Chiedo asilo. È l'accendino, scusa? No, è rubato prima. Ah già, è vero, eccolo qua. No, guarda che questo sempre è mio. La stessa storia. È mio questo qua. Sì, il tuo, c'è scritto sopra, non c'è scritto niente. È mio, il giallo. È il giallo, a me sembra che non fosse il tuo il giallo. Vabbè, tu fuma, intanto fra poco sarà vietato fumare dappertutto. Cosa? E se vanno avanti così le cose. Adesso in Inghilterra stanno pensando di vietare per legge di fumare in macchina, ad esempio, mentre ci sono i bambini però solo, Pensa che invece è vietato fumare in macchina all'isola di Mauritius, anche se sei da solo, non puoi fumare. Cioè la polizia può fermarti e dire no, lei non può fumare. Ma sono questioni di sicurezza. Ma non lo so, magari anche perché ti dicono non fumare nell'abitazione. Dove ricicli il fumo, annusi quello che hai appena espulso fuori. Poi parli fuori. Tu che hai dei buchi sul sedile della macchina. Vabbè, non li ho fatti io quelli. No, però io mi chiedo, è il caso di fare una legge secondo te? Non basta la sensibilità personale. Ma no. Se tu hai un bambino in macchina non fumi. Ma tiri giù il finestrino e vabbè. Può succedere. Quando ero piccolo io succedeva, mio zio Gigi ad esempio, quando dormivo dalla nonna, che mi doveva portare a scuola la mattina, mi chiudeva nella sua ape. E poi si accendeva la sigaretta, la nazionale semplice, alle 7 del mattino. Nell'ape. D'inverno, chiaramente, il finestrino, o meglio il deflettore, perché non era nemmeno un vero finestrino, non si poteva aprire. E quindi io mi facevo i miei 10-15 minuti in macchina respirando la nazionale semplice. Ma erano altri tempi, si fumava al cinema anche, si fumava negli ospedali. Mi ricordo, sì. Le mamme allattavano con la sigaretta in bocca. Però erano bei tempi, tutto sommato, perché non si dava così importanza alla salute dei bambini. Sì, ma chi se ne frega. Alla fine siamo tutti qui, vivi. In effetti, chi se ne frega? Siamo all'asilo e noi fumiamo lo stesso. Siamo in un ambiente pubblico, noi fumiamo lo stesso. Noi siamo uomini del XX secolo. Ma giusto, ce ne freghiamo. Ma io non so, siamo arrivati al punto di doverci perfino vergognare solo perché abbiamo il vizio del fumo. Vergogna! Vergogna! Vergogna! Vergogna! Dai, bambino Bersani, sei sempre lì a sorvegliare tutti. Perché invece di arrotolarti le maniche della camicia non ti arrotoli una bella sigaretta? I bambini dell'asilo stanno facendo casino. Ci vuole qualcosa per tenerli impegnati. Chiedo asilo. Sull'onda del pro prontuario della bambina Brambilla e della trasmissione dei bambini Fazio e Saviano, abbiamo anche noi una lista di consigli per le generazioni future, firmata niente meno che dal grande poeta estinto William Burroughs. Words of advice for young people. Well, here are a few simple admonitions for young and old. Ma che lingua fai? Non si capisce niente. Beh, eccovi qualche semplice raccomandazione per giovani e vecchi. Ma come vecchi? Qui siamo bambini. Never interfere in a boy and girl fight. Ma cosa dice? Non ficcate mai il naso in un litigio tra amanti. Amanti. Beware of whores who say they don't want money. State molto attenti a quelle puttane che vi dicono di non volere soldi. No, ma come il parolacciometro? L'ha detta lui la parolaccia? More money, much more. Col cazzo che non ne vogliono. Ma ancora? Ne vogliono di più, ne vogliono. Molti di più. Ma non l'ho detta io! If you're doing business, ma che fregatura sti consigli? Sto vecchio biascica e io spendo i soldi. Se sei in affari con un bastardo religioso, metti tutto per iscritto. His word isn't worth shit. Not with a good Lord telling him how to fuck you on the deal. La sua parola non vale una merda secca. È direttamente il buon Dio a dirgli come fotterti sull'accordo. Tranne la seconda parolaccia. Ah no, è la terza. 1,50 euro. Words of advice for young people. Now some of you men kind of the devil's bargain. E questo continua. Magari qualcuno di voi si imbatterà in un patto col diavolo, no, se riesce ad arrivare fino a quel punto. No, il diavolo no, eh. Any old soul is worth saving. Ma il diavolo del Milan. Every soul is Milan, ora sì. Qualsiasi vecchia anima è degna di essere salvata, almeno per i preti. Ma non tutte le anime sono degne di essere comprate. Beh, allora sono consigli di calcio mercato per il Milan. Adesso è il mercato di gennaio. Ma vuol dire compriamo Messi, eh? E Messi è forte. Dai Messi, dai Milan, gol! Richest guy in some cemetery. Quindi potete prendere l'offerta come un complimento. Il diavolo ci prova prima con le cose più semplici, tipo i soldi. E i soldi? Tutti i soldi del mondo. E il Milan. Ma chi vuole diventare il più ricco del cimitero? No, magari il più ricco del cimitero no, ma del Parlamento sì, eh. Not much left to spend it on, eh, Gramps? È presto vecchio. Too old to cut the mustard. I soldi non servono, non ci sono molti modi per spenderli, vero nonnetti? Come? Siete troppo vecchi per certe ma cose. Ma chi vecchio? Siamo bambini? Well, time hits the hardest blows, especially below. Però i vecchi c'è una bella voce, eh. Beh, il tempo mena i colpi peggiori. Aia! Specialmente sotto la cintura. No, aia! Sotto la cintura! Ma il parolacciometro è adesso anche le bastonate? No, eh! Prego, questa me la paghi, eh. Come mai vi attirano i corpi giovani? Uè. I frutti ancora da cogliere, il vedo non vedo. Ma cosa che guardi? Questo è un atteggiamento ambiguo. Have you forgotten something, Gramps? Drago! In order to feel something, you have to be there. Non è che avete dimenticato un dettaglio, nonnetti. Ma che non per è? Sentire qualcosa, bisogna starci dentro. Starci you dentro? Ma come stai parlando? Dovreste averli 18 anni. You're not 18. Non ne avete 18. No. 78. Ne avete 78. Come 78? Soul is so. Ah, ma allora parli del vecchio. Words of advice for. Parlo forte, people. William Burroughs. C'è sempre un vecchio scemo che vende l'anima per una scopata. Ma basta, Drago! Il parolacciometro! È la quarta parolaccia? Ho già speso 2 euro, cazzo! Eh no, adesso 2 mesi. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma! Chiedo asilo. Un programma di Gabba e Drago. Torniamo domani e mandate le vostre sigarette arrotolate a chiedoasilo@radio24.it. Chiedo asilo.